Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Dal Medio Oriente all'Occidente, il vento della protesta contro il film anti-Islam rischia di soffiare anche in Francia per le nuove caricature di Maometto pubblicate dal settimanale satirico Charlie Hebdo, in edicola da oggi. In copertina il topless principesco di Kate Middleton. Noi siamo in assoluta conformità con la legge sulla privacy italiana. Si tratta di immagini non offensive della morale. Nelle edicole, intanto, il numero della rivista al centro delle polemiche è andato subito a ruba. Le vignette nella quarta di copertina mostrerebbero il profeta in posizione osè. Arriva l'ordine di Al-Qaeda nella penisola arabica, continuate le proteste, attaccate e incendiate le ambasciate americane, uccidete i diplomatici, poi l'annuncio del Dipartimento di Stato USA. I familiari e il personale non essenziale lasciano le ambasciate di Tunisi e Khartoum attaccate venerdì. Tutto ruota ancora attorno al film su Maometto, pellicola blasfema per i musulmani, già causa di violenza nel Maghreb, nel sud-est asiatico e ora anche qual in Australia. Qual è il limite della profanazione? Quando riteniamo che venga profanato, cioè si entri in uno spazio sacro e quindi si faccia un'operazione detestabile. Oggi sono diverse le suggestioni che noi abbiamo, le abbiamo messe assieme, perché in effetti i due ambiti, che poi si assomigliano molto, alla fine c'è una componente, è sempre la componente sessuale o sessofobica. L'uno è la notizia, se voglio metterla di cronaca rosa, di gossip, che riguarda le principesche appendici mammarie immortalate da un settimanale, che hanno fatto il giro del mondo, pubblicate anche in Italia, sulla quale poi si è espressa una sentenza. Le tette della principessa non si toccano, sono le sacre tette che probabilmente allatteranno l'erede al trono d'Inghilterra. E quindi improvvisamente, oggi vediamo sui giornali, una sorta di tour riparatore in cui William e Kate se ne vanno in giro in canoa nelle isole Salomone e si mostrano, secondo me, in un atteggiamento ancora più profanante e irritante rispetto alla regalità che loro rappresentano, con le coroncine di fiori in testa, sulle piroghe con gli indigeni. E poi l'altra vicenda, la vicenda che nasce già dall'11 settembre con un ridicolo filmato, L'innocenza dei musulmani. Sembra una sorta di Ciranda de Pedra, una soap brasiliana girata in maniera del tutto approssimativa, in un deserto fatto con il chroma key, in cui c'è un giovane Maometto che compie attività sessuali con moglie o con concubine o cose del genere. Un trailer che poi è un film dalla misteriosissima radice che ha fatto il giro su YouTube, ma tanto che è stato costretto YouTube a non farlo vedere nei paesi in cui potrebbe essere a rischio, ha causato assalti alle ambasciate, l'uccisione dell'ambasciata americana e Libia di Chris Stevens e un'impressionante ondata di violenza. Come se non bastasse, un giornale satirico francese ieri ha venduto 75.000 copie in poche ore, Charlie Hebdo, per una vignetta, per una serie di vignette dove il protagonista è sempre il profeta e c'è sempre una componente sessuale, sempre rappresentato nella cosiddetta satira in atteggiamenti che hanno a che fare comunque con la sessualità, paragonato a Brigitte Bardot che mostra il suo sidetro e dice quanto vi piace e via dicendo. Stanno preparandosi a stampare 200.000 copie, vanno a ruba, non sa perché vadano a ruba, materiale che è già facilmente reperibile in internet, tanto che il presidente Hollande è stato costretto a chiudere tutte le scuole all'estero e tutte le ambasciate, e c'è un grande senso di tensione. Beh, cosa è stato toccato? Qual è il limite che è stato toccato? Perché improvvisamente, rispetto a una apparente possibilità di mostrare qualunque cosa, di parlare di qualunque cosa, ci sono dei luoghi intoccabili? Esiste un senso comune della profanazione, del sacro, dell'intangibilità, o naturalmente in certe epoche, in certi momenti si stabiliscono alcune barriere. Cosa ne pensa i Damagli? Buongiorno i Damagli. Buongiorno. Ci siamo risentiti dopo qualche settimana. Sento molto lontano, mi scusi. Diciamo, ci siamo sentiti da poco con materiale molto scottante. Un suo primo giudizio sui limiti della profanazione rispetto a questi due episodi: le tette della principessa e il profeta profanato attraverso video, attraverso vignette. Cosa penso della principessa? È presto detto, cioè la famiglia inglese è specializzata nel mostrare di sé soltanto gli aspetti peggiori di chi è ricco e non pensa a niente e si ricorda di essere qualcuno soltanto quando viene intercettato dalla gente, dalla massa e non gli fa comodo. Quindi a mio giudizio la principessa fa il paio con tutti gli altri che l'hanno preceduta nella famiglia inglese. Non ho mai sentito nessuno della famiglia inglese dire una parola importante, dire qualcosa sul futuro dei propri popoli, mai dire niente sul fatto che sono le persone più ricche del mondo perché sono azionisti di tutte le banche centrali e quindi il mio giudizio ovviamente è del tutto negativo. L'altra vicenda invece credo che debba essere sottoposta alla riflessione sia dei mezzi di comunicazione, lei sottolineava il fatto che poi queste notizie si vendono molto, e all'Occidente, perché l'Occidente crede ancora di essere padrone del mondo, ma non lo è. E quindi quello che pensa l'Occidente non è per nulla riflesso nel resto del mondo. Noi eravamo abituati, soprattutto l'Europa, a ritenersi il faro della civiltà perché non c'era nessuno che glielo metteva in dubbio, ma adesso non è più così. E per quanto riguarda il concetto di profanazione, vorrei sottoporre agli ascoltatori almeno questa riflessione: anche i non credenti, e sono la maggioranza, che entrano in una chiesa non salgono fino al tabernacolo, anche se pensano che lì non c'è né l'Eucaristia, né il corpo di Gesù, eccetera. Neanche i ladri rubano mai i vasi d'oro in cui sta l'Eucaristia. Perché? Perché il senso della profanazione va al di là della fede religiosa, è comune a tutti i popoli, quali che siano le varie chiese, le varie fedi, eccetera. Per cui se non lo facciamo per noi, evidentemente non lo dobbiamo fare a maggior ragione per gli altri. Per cui credo che la discussione sulla validità delle religioni non possa essere mai fatta prendendole in giro, ma sulla base eventualmente della razionalità, e quindi discutendo anche della nostra religione insieme alle altre. Per il resto trovo che è di un... non ho parole, non si tratta neanche di cattivo gusto, si tratta proprio della becera volgarità che anima ormai l'Occidente. Quindi, secondo i Damagli, anche l'operazione che viene fatta dal direttore di Charlie Hebdo, Stéphane Charbonnier, è un'operazione che in realtà poco probabilmente ha a che fare con la satira. Vorrei sentire adesso il collega Dominique Danglars, che è l'inviato del settimanale Le Point francese, se mi dà un attimo il polso. Cosa sta accadendo in Francia in questo momento? Innanzitutto, buongiorno Dominique. Buongiorno. Ecco, cosa sta accadendo? Perché mi sembra che è una situazione veramente di alta tensione, mai è stata così negli ultimi tempi. E valeva tutto questo casino per delle vignette che poi alla fine non fanno nemmeno tanto ridere, diciamo la verità? Allora, è vero che c'è un'alta tensione, bisogna anche capire che ci sono degli ostaggi francesi in mano a Al-Qaeda Maghreb, dunque... Che hanno già minacciato di uccidere questi ostaggi. Sì, dunque è un'affare di Stato. Detto questo, la Francia è abbastanza compatta a sostenere Charlie Hebdo. Perché? Perché Charlie Hebdo non è, alla differenza di quelli che hanno fatto, dei copti egiziani che hanno fatto il film, che è una operazione politica di provocazione solo, Charlie Hebdo ha in Francia una certa legittimità a fare qualunque cosa, perché lo fa dagli anni 70. Charlie Hebdo è stato ritirato dalla vendita il giorno della morte del generale de Gaulle per una vignetta che aveva fatto su appunto la morte del generale. Dunque, e Charlie Hebdo ha sempre picchiato, diciamo, ha sempre fatto delle cose. È normale che vada oltre i limiti quando ci sono situazioni di crisi, va sempre a toccare. È la sua ragione di essere e esiste nel panorama francese da 40 anni. Dunque, anche chi non condivide per niente le vignette ritiene che questo spazio è sempre esistito e deve ancora esistere. C'è un diritto sancito è incontrovertibile che Charlie Hebdo può di qualunque cosa fare l'uso che vuole. Questa è la sensazione. Charlie Hebdo è figlio di un altro giornale che si chiamava Harakiri, che rivendicava di essere stupido e cattivo. E questo spazio esiste nella stampa francese da più di 40 anni. Dunque ha da questo punto di vista una certa legittimità. Poi non è che fa delle battaglie contro l'Islam, lui va in tutto quello, tutto il cattivo gusto gli appartiene. Quindi a 360 gradi, laddove vuole, lui tocca, e non a caso ha toccato in un momento delicatissimo, perché dopo la questione del film, l'ambasciatore ucciso, i disordini sono stati, era proprio il terreno meno toccabile, l'ha toccato pesantemente, l'ha toccato in una maniera peggiore, se questo è il suo stile, in cui poteva toccarlo, perché è andato a toccare il profeta degli islamici nella sua parte più invereconda, e quindi l'operazione dal suo punto di vista è illecita. Marianna Aprile, buongiorno. Buongiorno. Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi. Un commento generale rispetto a due vignette. La vignetta di Charlie Hebdo che ha infiammato la Francia e sta facendo tremare di paura i francesi, soprattutto quelli che stanno all'estero. È una vignetta di cui si è parlato pochi giorni fa, del ministro Fornero in Ghepier davanti al telefono che attende lo squillo per cui Vauro è stato censurato, è stato messo all'indice ancora una volta. Io credo che le due vignette e in parte anche il topless di Kate a cui facevi riferimento in apertura si incontrino in un punto, che è una sorta di crocevia tra l'utilità sociale di quello che si pubblica, il rischio legale di quello che si pubblica e il buon gusto, semplicemente. Ora, la vignetta della Fornero, di Vauro sulla Fornero, a te non è piaciuta? Non mi piaceva, ma non per quelle motivazioni che sono state addotte legittimamente da tante parti, cioè la visione maschilista che trasudava da quella vignetta. Sinceramente mi importa poco, non sono quelle le espressioni del maschilismo che ci danno più fastidio. Era semplicemente inutile, cioè non faceva ridere, non diceva nulla, non aggiungeva nulla a quello che le persone già sapevano, esattamente come le vignette su Maometto. La satira, la profanazione, per quanto assurdo e provocatorio possa sembrare, ha senso se racconta o se è uno spunto di riflessione per mettere in discussione una tradizione che altrimenti... Ecco, tu tocchi un punto, Marianna. Non abbiamo in Italia una tradizione di terra franca dove si può dire ciò che vuole, perché quello è il suo ruolo, come diceva appunto il collega Danglà. In Francia c'è, e si sa che comunque stanno tutti a aspettare, tremare, perché anche nei momenti difficili si sa che comunque quel giornale, quella testata, sì, il male che è scomparso. Cuore a suo tempo, cioè, ci sono stati degli spazi di libertà. Da Vauro viene da quella tradizione, ma oggi non c'è, oggi esce fuori come un fulmine a ciel sereno. Ma non c'è, ma se deve esserci come c'è stato Charlie Hebdo e come c'è stato Vauro sulla Fornero, è meglio che non ci sia, perché non è uno spunto di riflessione, non è neanche sacrilego se ci pensi. Quindi secondo te anche le tette principesche in realtà un'operazione... Beh, non dimentichiamo che Kate è moglie e madre del futuro re, dei futuri re d'Inghilterra. Ma no, perché non se ne sta chiusa dentro la reggia con le sue guardie e va in giro come una qualsiasi mortale. Il re d'Inghilterra è capo della chiesa anglicana, quindi anche qui il sacro entra in qualche modo, sia pure in maniera puramente formale. Lei potrebbe starsene nella Torre di Londra bardata, nessuno la fotografa, e probabilmente è stata una leggerezza che entrambi pagheranno abbastanza cara anche dentro le mura di Buckingham Palace, ma non è quello il punto. Il punto è cosa aggiunge a quello che sappiamo della casa reale, alla riflessione sull'esistenza della monarchia nel 2013, cosa aggiunge alla riflessione sul fatto che Kate sia la moglie e la madre di un re nel 2013. Cosa aggiungono queste tette alla riflessione su questi temi? Nulla. Kate ha un paio di tette e va bene. Se okay. Kate si contamina con i comuni mortali e esce dal circolo sacro, questo è il mio punto di vista, in cui i regnanti mantengono appunto la loro investitura perché stanno lontano dai comuni mortali, se Kate va al mare e si toglie il reggiseno per prendere il sole, diventa una comune mortale, come qualsiasi persona che ha una notorietà, è giusto se c'è un paparazzo, gli fotografi le tette, è giusto secondo me che poi girino, perché è giusto, fa esattamente entro i limiti quello che farebbe... legali, quelle foto che abbiamo, mi avete trasmesso trasmesso in apertura un contributo audio di Alfonso Signorini, che è il direttore del giornale che in Italia ha pubblicato queste foto. Che lo pagheranno molto caro, poi penso, perché c'è una situazione processuale. Sì, ma la richiesta risarcitoria in termini economici mi è parsa anche molto esigua. Però vedremo in sede penale come andrà la cosa. Ma il punto è questo. Signorini diceva che sono foto perfettamente conformi alla legislazione italiana vigente. È molto discutibile. La legislazione italiana vigente, io non voglio annoiare con dettagli, ma fondamentalmente dice... Ah, che il tuo lavoro, lavoro in giornali che lavorano anche di questo. Tutte le foto che sono ottenute con sistemi che trascendono le normali potenzialità umane, quindi se io a occhio nudo vedo il palazzo di fronte, una persona sul suo balcone, attenzione, già che se fosse all'interno di casa e la finestra fosse di vetro non potrei già farlo, ma tutto quello che riesco a vedere a occhio nudo posso fotografarlo in luoghi pubblici. Quello che necessita di strumentazioni sofisticate, e queste foto, anche solo a guardarle con l'occhio poco esperto, si capisce che sono state ottenute con sofisticatissime apparecchiature. Pare scattate da una donna, questo è l'ultimo elemento. Questo è l'elemento, la ciliegina sulla torta. Questo salve, assolve. Una donna di mezza età, peraltro, che aggiunge anche. Politicamente ancora più corretta. Però sai che esattamente questo tipo di stampa, su cui non ho nessun pregiudizio, di questo vive molte volte il rischio di poi risponderne penalmente, vale la pena di fare un servizio per la gente, guardi. Vale la pena di è quello che dicevo prima, cioè l'equilibrio perfetto tra il rischio legale, quello sociale nel caso delle vignette di Maometto, e il buon gusto. Se la foto rispetta questo equilibrio perfetto, vale la pena di pubblicarlo. Se racconta qualcosa, è uno spunto di riflessione, vale la pena di correre il rischio anche di una causa legale in sede civile e penale. Altrimenti, sinceramente, mi sembra da kamikaze. 800 24 0024. Cominciamo a dare voce al pubblico. Lucia da Salerno. Sì, buongiorno. Senta, io ho sentito una parte dei discorsi precedenti. Comunque, volevo dire che il discorso di Kate, che è privata in un posto privato, in una situazione estremamente privata, viene fotografata, non stava a Porte dei Marmi o a Costa Smeralda, in un Lido, eccetera. Stava in Provenza, fuori. Adesso non è che... Prego. C'è un posto comunque di vacanza come un altro. Sì, un posto di vacanza, ha 27 anni, mi sembra una persona molto corretta nelle situazioni pubbliche, cioè è comunque una donna di 27 anni, poi ancora più squallido il fatto che sia una donna a fare la fotografia, a specularci sopra. Ma qual è il suo giudizio? Qual è il suo giudizio allora? Il mio giudizio è che Kate privatamente può fare quello che vuole, e che questo è tutto un gossip che fa soldi. Sì, però quello che lei chiama gossip, io non ho nessun tipo di legge morale, diciamolo subito, così almeno. Se esiste un tipo di fantaletteratura o di pubblicistica che di questo vive, che comunque sono persone che questo interessa, esiste da anni, indubbiamente, e se si sa, se un personaggio noto e famoso, comunque quando va in vacanza deve stare molto attento, potrebbe esserci appostato impunemente o ai rigori di legge, rischiando tantissimo, un fotografo lo fotografa perché ha un valore di mercato, il suo seno, le sue chiappe, via dicendo, come è accaduto a Casini, come è accaduto a un'infinità di personaggi, dalla specchiata moralità, può accadere anche alla principessa d'Inghilterra. Marta da Firenze. Sì, buongiorno. Sì. No, io penso che il limite del sacro, della cosa da rispettare, sia molto legata al tipo di religione o di personalità. Ma riguardo alle tette della principessa, qual è il limite? Riguardo alle tette della principessa, se ne vede migliaia di tette a un certo punto. Io non ho nemmeno visto queste famose tette, ma non me ne importa niente. A un certo punto è pieno alla televisione di donne mezze, di quarti di bue appesi, o che fanno il frappè di mele davanti all'obiettivo, quindi non mi sembra... Il frappè di mele cosa sarebbe? No, me lo spieghi bene. Ha mai visto una di quelle ballerine... Ce n'era una. Dio mio, no, non guardo queste cose. Me ne racconto. Invece io bisogna. È per cultura che bisogna guardare tutto. Ma cosa c'è? Frappè di mele? Non capisco. Frappè di mele quando uno muove molto rapidamente il culo. Ah, è bella, una bella cosa da vedere. Cosa c'è di male? Vabbè, uno spettacolo divertente, interessante. Sì. Quando poi è particolarmente nudo, quindi se è divertente, perché non devono essere divertenti le sette della fine? Ah, beh, allora è d'accordo con me che non c'è niente di strano. Grazie. Adriano, buongiorno. Buongiorno, io esordirò con A Los Enfants de la Patrie. Sono sposo totalmente in toto la tesi francese, per cui bisogna difendere strenuamente il diritto alla satira. Oltretutto un diritto che stanno pagando molto caro, perché c'è una tensione veramente importante, l'ha detto il collega francese, Al-Qaeda dice: uccideremo degli ostaggi che abbiamo nel Mali, vale la pena mettere a repentaglio le vite umane in nome del diritto della libera espressione della satira? Beh, la libera espressione e la satira sono delle cose che vanno a braccetto con la democrazia. Come dire, se io parlo, quello lì si incazza e spacca tutto, allora io non posso più criticare una persona, anche se ha molte cose per cui essere criticata, solo perché questa persona si incazza e spacca tutto. Quindi dobbiamo comunque difendere il nostro diritto, la nostra civilizzazione, nel poter anche fare satira, al di là di chi con la violenza, con una bieca reazione criminale, dice no, se tu lo fai io ti ammazzo qualcuno. Questo è il suo punto di vista. Andrea. Da Ferrara. Sì, salve, buongiorno. Ma io la vedo esattamente opposta rispetto anche all'ultimo ascoltatore. La verità è che il senso della misura con il sacro in Europa era già andato abbondantemente. Io ero bambino quando trasmettevano Mistero Buffo per televisione e a me il premio Nobel Dario Fo aveva, secondo me, anche il peccato implicito che si diceva prima. A me non mi faceva ridere. Sì, però nessuno l'ha fucilato, l'ha messo a rogo, no, o l'ha sgozzato. Vede, la cosa che secondo me va sottolineata è questa. L'Europa è impreparata adesso, perché si era abituata all'idea comunque di un cristianesimo che a chiacchiere era combattente, ma in realtà lasciava fare quel che si voleva. Adesso hanno trovato qualcuno che su queste robe qui, come diceva l'ascoltatore prima, si incazza. Mica una cosa, adesso... però, mi sembra di aver capito che lei è una persona credente, fortemente legato appunto a una professione religiosa. Esiste una maniera contemporanea, moderna, diciamo più spigliata, vivere la propria religione, per cui uno anche può farci una risata? Quando io sono battezzato, comunicato, cresimato, cristianamente sposato, si figuri, però non mi sento indignato per una battuta, per una cosa, ma dico, non posso pensare che esista un Dio che si indigni se qualcuno lo disegna in mutande, ma avrà una tal comprensione dell'umanità, se esiste un Dio, ammesso che esista, che si può farci una risata sopra. Perché questo livore, questa rabbia, questo desiderio di vendetta e di sangue? Ma io non ce l'ho il desiderio di vendetta di sangue, io dico semplicemente che quando si hanno 6 milioni di persone in casa come i francesi, che può darsi che su queste robe qua si incazzino un tantino, dico, viene in mente, l'avete fatta facile finché c'avevate della gente che incassava e stava zitta, e adesso beccatevi 6 milioni di quelli che si incazzano. Mi sembra sacrosanto e lecito quello che ha detto lei. Ha detto sì, giusto, la libera espressione, però fate il conto che c'è tutto un Maghreb di immigrati magrebini che potrebbero su questo avere l'occasione di far scatenare la scintilla di una grande rivolta e un grande bagno di sangue. Ci sono dei sensazionalismi irresponsabili. Ricordiamoci che l'Italia ha un codice penale che prevede la possibilità di perseguire chi offende la religione, e questo credo dovrebbe essere un principio diffuso in tutti i paesi del mondo. Le religioni sono una cosa fondamentale, importante per la coscienza di molti miliardi di individui, e nessuno deve permettersi di dileggiarle o di scherzare su questi valori. 800 24 0024, questo era il ministro degli esteri Giulio Terzi, che si è preoccupato di rasserenare probabilmente i musulmani italiani, ha ricordato che abbiamo delle leggi che impediscono il dileggio delle religioni. Velocemente, Marianna Aprile, giornalista del settimanale Oggi, però ahimè questo mostra anche un altro lato. Io sono perfettamente d'accordo per il rispetto delle religioni, però mi piacerebbe ogni tanto avere un respiro di leggerezza laica. Nel tuo mestiere di giornalista, che si occupa anche di questa sporca materia, perché fa parte del lavoro, perché si racconta al mondo, anche il gossip fa parte della nostra contemporaneità e scriverà la sua storia. Ci sono vari casi in cui però l'irruzione dell'elemento religioso fuori posto ha creato grande attenzione, circospezione e forse esagerato sdegno. Quali sono stati? L'ultimo che mi viene in mente in ordine di tempo è quello che ha a che fare con lo scandalo sessuale che ha coinvolto l'ex premier Berlusconi. Se vi ricordate della mole, della massa enorme di dettagli che venivano fuori da quelle intercettazioni, dall'inchiesta sul caso Ruby e la presenza appunto di questa prostituta minorenne ad Arcore nel 2010, una delle cose che fece più scalpore fu questo dettaglio raccontato da una serie di testimoni di cui personalmente ho avuto conferma da una delle partecipanti alle cene eleganti di Arcore, dalla Maristel Polanco, e cioè il travestimento da suora di Nicole Minetti e Barbara Fagioli, con annesso spettacolo durante il quale si usava un crocifisso. Ora, oggettivamente la ragione ci imporrebbe di badare ad altro, e cioè sulla presenza di una prostituta minorenne a casa del Presidente del Consiglio, piuttosto che a un travestimento burlesque o pseudo burlesque durante il quale si dileggia in qualche modo la religione. Questo però non è così, cioè se la ragione ci arriva, tutto il resto fatica a mettere a fuoco. Perché? Perché la religione, e lo dico da atea, pertiene a una serie di paure ataviche, è la risposta a queste paure. Sono paure che anche quando le neghiamo o anche quando ce le spieghiamo razionalmente con la cultura, con la ragione, eccetera, rimangono fossilizzate dentro di noi. Per cui anche gli atei, anche i più illuminati pensatori, quando pensano alla Minetti vestita da suora per divertire il Presidente del Consiglio, sono irritati, non sono tanto perché una consigliera regionale, doppiamente indignati, ma perché la gratuità della cosa, come nelle vignette di Maometto, è gratuito, non ti però vestire da suora. Però ce l'ha spiegato Ida Magli molto bene poco fa: anche il ladro va a rubare in chiesa, si ferma davanti al Sancta Sanctorum, perché comunque la regione è talmente e visceralmente fa parte dell'essenza umana, anche perché non la condivide tutto, che c'è comunque un limite dell'invalicabile che noi abbiamo sempre. Dominique Dagla, velocemente, ti ho tenuto molto al telefono, ma mi interessa il tuo parere. Ricordo, inviato del settimanale Le Point, la questione francese è anche particolarmente delicata. La grossa presenza magrebina o comunque islamica in quel paese rende ancora più difficile e più problematico di quanto potrebbe essere in altri paesi la gestione di questo particolare momento. Sì, senz'altro. Però c'è anche un altro sentimento in Francia, è che molte di quei manifestanti che hanno manifestato o in Francia o nei paesi arabi non hanno neanche visto le vignette o non hanno neanche visto il film anti Maomet. Dunque che in fondo il vero motivo dell'emergenza non sia queste vignette di cattivo gusto, e su questo il 99% dei francesi sono d'accordo, ma sono dei movimenti come dire, fatti ad arte per sfruttare una situazione e che tendono a mettere in questione un tipo di società, non tanto il fatto stesso delle vignette. Quindi tu mi dici è il passaparola nei confronti di alcuni episodi, anche perché la maggior parte dei manifestanti o degli indignati poi non va a cercare in internet, certo, il anche filmato. Anche quelli che sono morti in Tunisia, molto di loro non avevano visto il film dei copti e poi neanche le vignette. Dunque c'è questa idea che bisogna dissociare un fatto di società sul quale ci si può parlare, quello che è lecito, quello che non è lecito, e una realtà politica frutta di altri motivi. È chiaro, grazie Dominique, buona giornata. Maometto da Ferrara, buongiorno. Pronto? Pronto? È il suo nome, Maometto si chiama. Sì. La sto ascoltando. Pronto? È già caduto, Vediamo se riusciamo a recuperarlo. Era un signore che doveva dire la sua. Riprendiamolo con Ida Magli. Ida Magli, ricordo, antropologa, ha dedicato i suoi libri e i suoi studi soprattutto alla condizione della donna nella civiltà occidentale, ha scritto un'infinità di saggi, l'ultimo è Dopo l'Occidente, Rizzoli Editore, l'abbiamo anche chiamata in studio. Ida Magli, rispetto a quello che abbiamo detto fino adesso, questa componente fortemente legata della sessualità e della religione riemerge, mi sembra, in maniera molto chiara anche in questi episodi messi in correlazione. Ma io infatti riflettevo sul fatto che in realtà quello di cui stiamo parlando questa mattina interseca continuamente la condizione della donna, sesso e donna. E per esempio, per quanto riguarda il ministro Fornero, io credo che la caricatura abbia un senso soltanto se mette in luce alcuni aspetti della funzione sociale di una persona. Quindi del ministro Fornero si può dire tutto il male che si vuole in quanto ministro del lavoro, eccetera, eccetera, non perché è donna. Quindi siamo ancora, malgrado tanti anni dal femminismo, siamo ancora di fronte al fatto che prevale il sesso femminile sulle funzioni che le donne svolgono. Mi riferisco per esempio anche al film in cui è una donna che adopera il crocifisso per l'autoerotismo. Allora, il film che ha fatto scandalo nell'ultima edizione del Festival del Cinema a Venezia. Ecco, allora mi domando, ma perché ancora si deve servire della donna come strumento di comunicazione? Perché questa è stata sempre la funzione fino a pochi anni fa e lo è ancora, tranne che in Occidente, ma evidentemente gli uomini fanno fatica a capirlo. Non è più strumento di comunicazione. Allora, oggi sono emersi a livello di importante società i gay che vogliono coprire anche il ruolo delle donne, perché non deve essere un maschio a usare il crocifisso per l'autoerotismo? Seconda cosa, l'attrice e tutte le donne avrebbero dovuto contestare questa funzione, perché se c'è una persona che ha dato il via alla libertà delle donne come persona, è stato Gesù. E quindi, prescindendo dal fatto che esiste il cristianesimo, la Chiesa, tutte le colpe che si vogliono della Chiesa, però il personaggio Gesù rimane quello che è, e cioè la persona più libera che sia mai esistita sulla Terra, come riconoscono anche i peggiori nemici del cristianesimo. Parlo per esempio di Nietzsche, di Oscar Wilde, di Renan. Allora perché una donna si presta a fare una cosa del genere? Osò toccare la donna mestruata con l'emorragia e la guarì, cosa che nell'idea stessa del contesto in cui si muoveva era il più atto più profanatore e più nemico della religione che potesse esistere. Oggi il cristianesimo è l'unica religione in cui il rito di iniziazione è uguale per i maschi e le femmine, cioè il battesimo. Quindi per influenza ovviamente di quello che aveva fatto e detto Gesù. Allora io dico che ancora questa idea che siano le donne, a maggior ragione tramite il sesso e tramite la religione, a fare come strumento di comunicazione, è la peggiore verifica di come il femminismo non sia servito. Quello che dice Damalli, continuano a usare le donne, è vero, perché nel famoso film dello scandalo in realtà le scene più a un certo punto di vista fanno sorridere, diciamolo, che siamo persone libere, questo giovane profeta è inseguito dalle mogli con le ciabatte in mano perché l'hanno trovato con un'altra ragazza a giacere. C'è sempre le donne usate strumentalmente come elemento di rottura, di profanazione, di dissacrazione. Per creare casino venne sempre messa una donna. È interessante, perché siamo partiti da un'analisi che sembrava semplicemente legata alla contingenza di due episodi in cui il limite della profanazione sembrava tracciato dalla religione da una parte, da ciò che rimane dell'investitura sacra di una monarchia, ma stiamo andando molto lontani con Ida Maglie e con Marianna Aprile. Poi vediamo che c'è un punto di cardine, di snodo in tutto questo, e le donne in realtà emergono fortemente come elemento misterioso, come elemento che ancora sono temute in generale dalla società degli uomini, vengono strumentalmente usate come strumento di comunicazione, come dice appunto Ida Maglie. Dice: metteteci un uomo la prossima volta a fare l'autoerotismo col crocifisso e vediamo un po' se il mondo si indigna alla stessa maniera. Sentiamo qualche ascoltatore. Leonardo da Napoli, buongiorno. Buongiorno, posso parlare? Mi ascoltate? L'ascolto, sì. Senta, allora no, la riflessione che volevo fare insieme a lei è la seguente. Questo giornale è uscito subito dopo il film, con l'intento ovviamente di vendere più copie. Ma di far casino, perché è il suo scopo, vive per fare casino, sì. Per far soldi, non per fare casino. Ma mica c'è niente di male, i giornali si fanno per venderli, non per... La riflessione è questa, mi domando io, per quale motivo, sì, ci stanno vignette contro il Papa, la Chiesa, eccetera, ma per quale motivo, ci siamo domandati, non c'è così spinto in maniera così violenta una satira nei confronti del personaggio di Gesù? Non abbiamo mai visto Gesù che fa un amplesso, non mi faccia essere blasfemo, con qualche santa. Ma guardi, probabilmente, guardi, glielo dico, in realtà ci sono queste cose, ce ne sono tanti, potrei farle mille esempi, perché in questo siamo diversi, non prendiamo in mano la spada e il Kalashnikov se qualcuno ci fa soffrire perché tocca i simboli sacri della nostra religione. Ci possiamo indignare, possiamo arrabbiarci e tutto, ma difficilmente, spero che mai accadrà più, che un cristiano prenda la spada semplicemente per reato di oltraggio o di blasfemia. Alla fine il cristiano deve essere una persona comprensiva, alla fine deve anche capire che non tutti, io adesso mi improvviso buon cristiano e non lo sono affatto, però perché siamo più civilizzati, oserei dire anche del nostro professare una religione. Maria Grazia da Padova. Pronto? lei è stata urtata dalle mie idee. Sì, su alcune cose non sono d'accordo, compresa l'ultima che lei ha sostenuto, per cui i giornali devono più vendere, ma possono anche vendere cose intelligenti, oltre che cose, diciamo, di cattivo. Beh, non sempre l'intelligenza è un prodotto che ha mercato. Ma si potrebbe fare in modo che ci sia, perché al punto in cui siamo arrivati... mica possiamo cambiare l'umanità. Se io faccio un giornale di tette culi ne vendo tante copie, se faccio un giornale di ermeneutica ne vendo pochissime. Lei mi insegna che però le cose si raggiungono un po' per volta. Certamente purtroppo al punto in cui siamo arrivati è abbastanza difficile riuscire a vendere molte copie di cose intelligenti, però almeno ci dobbiamo provare, perché veramente è una devastazione totale. Riguardo al discorso che ho sentito, ma lei l'ha vista l'immagine con le tette principesche? Col senno no, uso la parola senno non a caso. Sono stato un estimatore del primo che ha usato il termine, vabbè, mo lo devo dire, cazzo in TV, perché cosa ha detto, signora? Di rottura. Adesso non si fa che usare termini. Io trovo fu Cesare Zavattini, fu cacciato dalla RAI, non mise più piede in RAI. Perché cosa dire cazzo? Che è una parola che vede, lo dice una gentildonna come lei, tranquillamente, senza sentirsi. Ma adesso siamo arrivati a un punto in cui io ho smesso di insegnare un anno e mezzo. Mi chiedevo se dovevo insegnare ai bambini a dire cazzo, casino, puttana, eccetera. Ma sono loro che lo insegnavano a lei, penso, professoressa. Questo è il linguaggio, no, insegnanti di scuola primaria. E i bambini, dottoressa, evidentemente, ripetevano questo turpiloquio continuo che sentono dovunque, e questo è un imbarbarimento. Vabbè, il turpiloquio fa parte, la lingua si evolve, lei me lo insegna se lei è un insegnante, e nell'evoluzione della lingua c'è che vengono sdoganati alcuni termini forti. Mia nonna non pronunciava la parola piedi, e si diceva piedi, diceva piedi con rispetto, e oggi una signora come lei dice tranquillamente cazzo senza sentirsi prendere soffocare la gola. Grazie signora, Maometto da Ferrara, l'abbiamo trovato. Pronto? Eccolo. Buongiorno. Ma lei perché si chiama Maometto? Com'è? Perché si chiama Maometto? È perché è un nome come qui, è il nome comune nei nostri paesi. E lei, qual è il suo paese? Tunisia. È Tunisia. Io chiamo da... io abito a Ferrara. Io vorrei dire una cosa. Lo so che qui in Occidente c'è la libertà di espressione. Per questo giornalista che dice... l'inviato del giornale francese qui in Italia, che dice noi in Francia siamo liberi di dire, di fare quello che ci pare, compreso quello che ha fatto le vignette. Ha detto c'è un giornale che storicamente ha il ruolo di essere il cattivo che può dire qualunque cosa, e quindi dice qualunque cosa. Sì, è vero che c'è la libertà di espressione, però lui si è dimenticato che in Francia ci stanno 6 milioni di musulmani. Non è che offende uno, offende 6 milioni. In più anche me, anche tutti i musolmani che ci stanno. Paolo, posso fare una domanda, Maometto? Ma proprio amichevole. Io non rappresento nessuno, lei non rappresenta nessuno. Come mai io, cristiano, se vedo una vignetta che prende in giro Gesù Cristo, posso dire ma brutta, non mi fa ridere, non mi piace, ma non mi viene in mente di andare in piazza, di ammazzare gente o altro, e in realtà a altre persone viene questa idea. Sì, mi posso sentire offeso, ma non è che ne faccio un dramma. Penso che il Padre Eterno è talmente grande che avrà pietà della persona che lo prende in giro. Ho capito, quello sono d'accordo con lei io per questa cosa. Quindi qua lei non scenderebbe mai in piazza a ammazzare qualcuno per una vignetta? No, io non sto scendendo, io sto però mi sento offeso. Perché con tutto quello che c'è in giro, tipo questa principessa che sta in topless a fare il bagno, hanno fatto un casino perché dicono che lei che non dovevano farlo, che perché è una regina. Però andare a toccare una religione in questo momento, dopo quello che è successo nei paesi nel Nord Africa, ma lei cosa ne dice di quello che succede? Secondo lei una religione può essere l'offesa verso una religione, è una cosa brutta, l'abbiamo detto, non abbiamo anche delle leggi che la reprimano, l'ha detto i Damali, siamo tutti d'accordo che non è proprio il massimo, sarebbe meglio non farlo, dispiace, è un atto a volte anche squallido, ma vale la pena il sacrificio di vite umane, l'uccisione, l'occhio per occhio? No, perché quindi lei rappresenta, diciamo, una posizione islamica aperta, illuminata, moderna. Aperta giusta fino a un certo punto, perché io mi sento solo offeso. Io non vado né con la Kalashnikov a ammazzare la gente o a buttare le bombe perché hanno fatto una... Io vorrei vedere una legge che proibisce l'offesa di tutte le religioni, compreso tutte, cristiani, musulmani. Ma c'è questa legge in Italia? C'è in Italia, no, se offendo una religione? Italia, però in Europa non c'è, come hanno fatto in Olanda, come hanno fatto in America un film. Poi alla fine io guardo le conseguenze, non guardo quella vignetta. Però lei sarà con me d'accordo che sarebbe ora che la gente smetta di uccidere per un principio religioso. Non può più essere la religione il motivo delle guerre, delle battaglie, degli sgozzamenti. Possono esserci, ci saranno sempre, ma non può essere l'offesa alla religione una vignetta. O non è d'accordo? Sono contro, ma quella gente cerca sempre un preteso per fare quello che vuole fare. Perché l'Islam non dice che per una satira io vado ad ammazzare un'altra persona. Io non sono responsabile. Io l'unica cosa che mi posso offendere, sì, però altro non posso fare, perché non posso. Io l'unica cosa che vorrei vedere è una legge che usci, spero che uscirà adesso, per non offendere gli altri, perché è vero che la libertà di espressione, uno può dire quello che le pare. Momento, guardi, però, non vorrei che fosse considerato un atto anche questo di poco rispetto, ma devo tagliare Momento a questo punto perché la trasmissione è finita. Ringrazio i Damagli, ringrazio Marianna Aprile, ringrazio tutti che mi hanno seguito in questa trasmissione.